che ne hai abbastanza del giudizio della gente che non sa niente, che ti dice prepotente. Tu sei diversa, tu sei diversa. Quanto vuoi, non fingere di essere quella che non sei. Ti prego non fermare la tua gioia di vivere e d'amare, quell'istinto naturale. Non sei diversa, non sei diversa. Quanto vuoi, resta come sei. Benvenute a tutte, benvenute alle persone che con noi, le donne che con noi parleranno di questo volume. Il testo in questione questa sera è Resistenze lesbiche nell'Europa nazifascista. Una delle curatrici, Paola Guazzo, ciao, è con noi, e con lei ne parleranno Antonella Petricone e Monica Cristina Storini. Ci interessa, come coordinamento lesbiche romane, dirvi perché presentiamo questo libro. Intanto è un'iniziativa in continuità con altre. Abbiamo iniziato già nel 2007 presentando un libro che si intitolava Fuori della norma e che parla, anche quel libro, della resistenza delle lesbiche però in Italia. Ed è una raccolta di saggi, lo presentammo, curato da Marina Milletti, e lo presentammo appunto nel 2007 qua. E nel 2009, sempre andando verso questa direzione, insieme ancora una volta a Monica e Antonella, abbiamo fatto un'altra iniziativa il 24 e il 25 aprile sulla deportazione. Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi una sopravvissuta al campo di concentramento di Ravensbrück, che è Mirella Stanzione Laurenzi, e che con noi affrontò questa questione. Noi in quell'occasione indagammo altre questioni, e cioè non solo ovviamente la testimonianza vitale di Mirella, ma anche dove finirono le lesbiche in quei tempi, sapendo che non stavano nei campi di concentramento individuate come tali, quindi come lesbiche, ma come con triangolo nero, come comuni. Diciamo che non era un reato il lesbismo a quei tempi, mentre c'era il famigerato articolo 175 in Germania, ma le lesbiche venivano individuate come sicuramente riconducibili alla norma, quindi non attentavano alla razza come gli omosessuali, che venivano stuprate. Gli uomini maschi avevano accesso comunque ai corpi delle donne. Già in quell'occasione abbiamo avuto anche una mostra curata da Bertozzo, molto significativa per noi, e che si intitolava Le SS ci guardavano come degli scarafaggi, come se fossimo degli scarafaggi, una mostra di tipo fotografico sulla deportazione delle donne. Detto questo, ci interessa perché per le lesbiche ricostruire o avere una memoria storica è fondamentale. La storia delle lesbiche nella storia, quindi la storia individuale e collettiva delle lesbiche nei tempi, è quella di avere una memoria interrotta. E questa memoria interrotta, o la memoria dannata, come in altre occasioni viene definita, è purtroppo una vera dannazione, perché sulla memoria e sul percorso storico si costruisce l'identità. Quindi per le lesbiche costruire l'identità è veramente catastrofico, difficile. Sia in Fuori della Norma che nel libro curato da Paola, cioè R/esistenza, che ha a che vedere con, ancora una volta, con la storia delle lesbiche, e cioè le lesbiche per esistere devono resistere. Questo è l'altro elemento che accomuna la storia delle donne lesbiche, cioè in tutti i periodi storici le lesbiche devono resistere per esistere. Per quanto invece riguarda le persone che parleranno di questo libro, intanto è Paola Guazzo, ha curato questo libro e si definisce una persona che ha voglia di scrivere, e questo è molto bello da parte di persone che si misurano con questo tipo di elemento, che serve a costruire memoria, peraltro, ma non solo. Lei ha scritto un suo romanzo, si intitola Un mito a suo modo, e che ha a che vedere con il lessico lesbico, e che potete trovare nell'edizione Croce. E poi ha curato, insieme ad altre, tra cui la Cirillo di Milano, l'ultima rivista di Quaderni Viola, che si intitola non a caso Orgoglio e Pregiudizio, e che tratta appunto delle lesbiche di ora, e fa anche una mappatura dei gruppi. Quindi questo per quello che riguarda Paola. La professoressa Storini è per noi una grandissima amica, una compagna del nostro gruppo, che collabora con noi tutte le volte che può farlo. Non solo che vuole volentieri, ma che può farlo dati i suoi impegni. Ha fatto un percorso con noi per un periodo abbastanza lungo di proprio partecipazione attiva al gruppo, adesso è più a un livello di collaborazione a causa degli impegni che ha. È docente universitaria presso la Sapienza. Con lei abbiamo, come vi ho ricordato, fatto quel lavoro per il 24 e il 25 aprile del 2009, ma non solo, abbiamo fatto documenti insieme. Abbiamo partecipato a varie iniziative dove l'apporto di Monica per noi è stato prezioso, come oggi lo è. Grazie Monica. E l'altra persona è Antonella Petricone, della cooperativa Be Free. Tanto con Antonella abbiamo fatto l'altro lavoro e ci ha permesso, grazie ad Antonella, noi siamo arrivati a Mirella Stanzione Laurenzi, la sopravvissuta di Ravensbrück. Lei non ama definirsi una storica, però per noi lo è. Ha fatto un dottorato di ricerca proprio su la deportazione femminile, e quindi il campo di concentramento di Ravensbrück in particolare, che è non tanto conosciuto. La storia delle donne passa sempre in secondo piano, è come se non fosse mai così tanto importante, perché le donne, si sa, devono soffrire. Non sono importanti le deportate donne. Mentre i numeri che ci diceva lei erano insomma numeri veramente significativi. Detto questo, io mi chiederei, però vi voglio salutare con un piccolissimo pezzetto della prefazione del libro curato da Paola Guazzo, ed è questo pezzettino che ha a che vedere appunto con la resistenza e l'esistenza lesbica. Al di là dell'impegno antifascista attivo che emerge nelle biografie di Frida Belifante, Claude Kaun e Moxa Steinerhan, nonché di molte europee presenti in questo testo, tra cui le italiane Gianna Ciao e Flavi Mazzucato, è bene notare che la barra posta su R-esistenze, quindi resistenze, indica che per le lesbiche la stessa esistenza può essere considerata una forma di resistenza, per esempio l'eterosessualità obbligatoria, alla cancellazione di sé e delle proprie passioni. Vieppiù, in periodi di forzata normalizzazione di tutte le donne, come furono quelle dei fascismi europei del Novecento, trovare tracce di chi è semplicemente esistita è un lavoro difficoltoso tanto quanto lo è scrivere la storia di chi ha resistito. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doors of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Ho naturalmente due colleghe carissime che non sono presenti qui. Una lavora in ambito accademico, però nell'Istituto di Germanistica dell'Università di Catania, quindi anche lei non è una storica del movimento lesbico, però ha fatto un dottorato di ricerca a Vienna e ha conosciuto Ines Rieder, che è l'altra curatrice. Ines aveva curato una mostra a Vienna molto importante sugli esiliati gay e le esiliate lesbiche che se ne sono andate via dall'Austria nel periodo dell'avvento hitleriano, della conquista hitleriana. Ed è stata una mostra molto importante, curata con i fondi del Comune di Vienna, e lei comunque aveva questa grande conoscenza appunto rispetto alla storia austriaca e a tutti i casi che sono intercorsi in Austria. Ed è interessante perché ha aperto proprio anche la maggior parte delle storiche europee sono state contattate da Ines, quindi io la voglio anche ringraziare qui, anche se non è presente, per questo lavoro di connessione brillante e ricco che lei ha cercato di fare. Oltretutto ha contattato anche delle ricercatrici nella ex Jugoslavia. Purtroppo non siamo riusciti ad avere dei materiali loro, e aveva anche contattato Andrea Peto, scusate, questo è un cognome buffo, però di Budapest, che fino all'ultimo ci ha tenuto in attesa di un suo contributo, ma poi sono stati chiusi gli archivi rispetto all'occupazione nazista a Budapest, in Ungheria, e quindi non ha potuto continuare la sua ricerca. Questo per dire anche che ci sono degli ostacoli concreti alla ricerca, non solo lesbica, ma in generale a quella della storia dei nazifascismi. Nello stesso pezzo di Ines, in alcuni casi, non c'è stata la citazione completa della fonte archivistica, perché lei riesce ad avere dei materiali in certi archivi quasi segreti che ci sono a Vienna, soltanto per delle conoscenze personali. E questa è anche un quadro che ci racconta come la resistenza lesbica, come giustamente hai detto tu, sia un problema anche oggi. Vi dico brevemente come è strutturato il volume. Si parla appunto di Europa, e nel titolo si parla di Europa nazifascista, ma in realtà c'è anche un contributo sul franchismo spagnolo. E io sono particolarmente contenta di questa cosa, perché la storiografia lesbica sta andando molto avanti in Spagna. E tra l'altro purtroppo ho conosciuto soltanto alla fine un testo interessantissimo sulla vita quotidiana delle lesbiche a Barcellona durante il franchismo, con interviste e storie. E avrei voluto aggiungere anche questa cosa, purtroppo non c'è stato tempo e speriamo magari di farla in un secondo momento. L'intervento di Raquel Osborne è più sull'internamento, Raquel Osborne che è spagnola a dispetto del cognome inglese, è più su aspetti che riguardano l'internamento e comunque mi sarebbe piaciuto molto invece aggiungere questo altro saggio che cito nell'introduzione e purtroppo non siamo riuscite, quindi ci sono anche dei limiti purtroppo a questo lavoro, nel senso che è stato un lavoro fatto su una base volontaria senza nessun aiuto da parte di strutture universitarie o comunque di fondazioni o comunque tutto quello che può servire per far riuscire bene una ricerca. Per fortuna in Europa comunque le ricercatrici di storia lesbica hanno fatto grandi passi, ci sono materiali consistenti. Infatti il nostro volume incomincia con Claudia Schoffman. Claudia Schoffman è importante e conosciuta anche perché è stata tradotta in inglese e ha parlato comunque del Terzo Reich, che è l'aspetto più macroscopico della storia dei nazifascismi. E dopo l'articolo di Schoffman c'è un altro articolo di Ilse Kokula, che è stata la pioniera degli studi sul periodo nazista in Germania, sulla vita delle lesbiche nel periodo nazista. Poi c'è un interessante saggio di Enza Scuderi, un'altra delle curatrici, che è il confronto delle esistenze di tre lesbiche che sono anche scrittrici e sono esiliate. Quindi attraverso c'è un'analisi e una comparazione di queste tre reazioni al regime hitleriano. Io mi sono occupata io mi sono basata molto sul libro di Milletti e Passerini, ecco, le ringrazio qui, e tra l'altro peccato che non ho ancora visto Elena Biagini, perché vorrei anche ringraziare lei, perché Resistenza in qualche modo l'ho mutuato da quello che è il titolo del suo saggio sulla vita delle lesbiche durante il fascismo. E io ho cercato di fare una lettura in qualche modo sintetica di questo libro, poi ho aggiunto anche dei frutti di ricerche mie, però ho cercato di delineare quelli che secondo me erano dei modi di esistenza delle lesbiche italiane durante il fascismo, e ho trovato quindi la vita della resistenza esplicita, come è stata Gianna Ciao, esistenze invece di donne che hanno fatto una resistenza intellettuale e si sono isolate nel loro universo culturale, esistenze di donne che hanno vissuto un associazionismo al femminile che gli ha concesso comunque di vivere anche i loro amori, sia all'interno della Fildis, e questa è una cosa che nel libro di Merina non c'è, quindi l'ho trovata io nel corso della mia ricerca, sia all'interno, dicevo, della Fildis, che è la Federazione Italiana Laureate e Diplomate, sia all'interno invece di quelle che erano le strutture di aggregazione sportiva e sociale del fascismo, che comunque concedevano anche ad alcune lesbiche di vivere una vita sociale da lesbiche, anche se naturalmente in modo occulto o comunque non esplicito. E mi sono in parte occupata anche di alcune testimonianze sull'internamento, insomma ho cercato di fare una sintesi sull'Italia, che non aggiunge forse troppe cose nuove, ma è stato comunque un tentativo di fissare alcuni punti che secondo me erano importanti. C'è un saggio molto interessante di Marie-Jo Bonnet, che è francese, su Ravensbrück, di cui poi parleremo meglio con Antonella, e su quella che è la stigmatizzazione delle lesbiche triangolo nero all'interno del campo di concentramento di Ravensbrück ad opera delle detenute politiche. E questo è un nodo nevralgico, nel senso che abbiamo messo, nel saggio di Marie-Jo Bonnet sono stati messi in rilievo anche alcuni aspetti non idilliaci del rapporto tra lesbiche. E all'interno dell'universo concentrazionario ovviamente non sono idilliaci, perché è una struttura oppressiva e perché ci sono ruoli più atti a favorire la sopravvivenza e altri meno. Però è anche un discorso in generale su quelle che possono essere gli attriti e le differenze culturali fra donne e fra lesbiche. Quindi abbiamo avuto, Marie-Jo Bonnet ha avuto, ma io ho accolto molto volentieri questo tentativo appunto di mettere a fuoco una storia a tutto campo, che non sia soltanto la storia idilliaca di quanto sono belli i rapporti tra noi. E di questo aspetto dell'internamento e delle tensioni e dei conflitti all'interno della vita di prigionia si occupa anche il saggio di Raquel Osborne, che si occupa del franchismo. Infine tutto questo è concluso da una biografia che possiamo chiamare esemplare, che è quella di Mopsa Sternheim, questa donna che potremmo anche quasi definirla bisessuale, nel senso che lei ha avuto anche una vita di sperimentazione sessuale, è più lesbica, però nella sua vita non c'è stata una chiusura totale verso le relazioni maschili, ha vissuto a lungo nella Repubblica di Weimar in questo periodo di forte libertà sessuale, ecco. E è stata resistente in Francia nel periodo dell'occupazione tedesca ed infine è stata internata a Ravensbrück. E a Ravensbrück è riuscita a sopravvivere anche grazie a una relazione che ha messo in atto con una giovane internata francese. Quindi c'è questa storia che in qualche modo abbiamo ritenuto fondamentale per chiudere il volume, proprio con una biografia completa, con una storia di vita. Ecco, io finirei qui perché più o meno diciamo il riassunto è completo e lascerei la parola ad Antonella, che può appunto andare nel merito di qualcosa. Allora, io vorrei prima di addentrarmi, prima di come dire, fare delle considerazioni che chiaramente mi piace condividere con voi, condividere con Paola qui, vorrei dire quello che mi ha dato innanzitutto questo libro, perché poi secondo me è importante, no, che da una lettura ne scaturisca anche un'esperienza, quindi è un po' questa esperienza che io voglio condividere. Allora, il libro per me è stata una boccata di ossigeno, chiaramente non era un argomento completamente nuovo, perché mi sono occupata, come prima Lucilla vi diceva, di una ricerca che ha riguardato le donne internate nel campo femminile di Ravensbrück, che è stato il campo più grande ad impronta femminile, quindi un campo costruito interamente per le donne, per cui l'argomento, come dire, già di per sé mi affascinava, perché mi riportava a questo precedente lavoro, a questa precedente anche passione che mi ha condotta poi a scrivere una tesi vera e propria di dottorato su questo. Per cui, come dire, sollecitata dall'emozione di riscoprire attraverso una lettura differente, perché proveniente da studiose diverse, di diversa origine, di diversa chiaramente appartenenza, ero sollecitata dal leggere un libro che finalmente, come dire, colmasse uno dei tanti vuoti che purtroppo ci sono ancora, dominano ancora la storiografia e la letteratura femminile, femminista, riguardo soprattutto queste tematiche. Per cui, come dire, avere a che fare, attraverso il mio lavoro ho studiato, ho avuto modo di, anche attraverso delle testimonianze, andare a cercare a capire quali potessero essere le ragioni di un silenzio che chiaramente va ancora indagato, va ancora capito, va ancora compreso, il silenzio delle donne, di tutte quelle donne che non hanno potuto parlare della loro esperienza di deportazione, perché non sono state messe in condizioni di farlo, perché non hanno trovato un contesto favorevole, un contesto sociale e politico pronto ad accogliere la loro testimonianza, quindi ad accogliere la loro voce, per delle ragioni che poi magari vedremo anche insieme. E nello stesso tempo, come dire, ho avuto la possibilità attraverso le testimonianze, una delle quali lo ricordava prima Lucilla, Mirella Laurenzi Stanzione, che è stata deportata nel campo di Ravensbrück, italiana, originaria di La Spezia, adesso vivente ancora qui a Roma, ho avuto modo, no, di andare, come dire, insieme a lei a scardinare quelli che potevano essere gli stereotipi legati ancora alla storia della deportazione con questa chiave, che io dico di genere, anche se, come dire, mi rendo conto che definire questioni di genere oggi ha la sua problematicità, perché in questo mi allaccio anche molto alla riflessione di Paola Di Cori, quando lei esprime un dissenso rispetto all'uso che noi facciamo un po' troppo, come dire, banalizzante del termine genere, come per indicare, no, una storia delle donne in contrapposizione, non si capisce bene se ha una storia degli uomini, per cui quelli però erano gli stereotipi che io mi sono trovata di fronte e che Mirella mi ha aiutato a in qualche modo a scardinare, stereotipi legati a una condizione delle donne che, come vi diceva prima Lucilla, è stata da sempre contrassegnata appunto dai non detti, dai silenzi, dal non riuscire a nominare anche un'esperienza vissuta. Tutto questo io l'ho ritrovato e l'ho ritrovato con una certa familiarità, devo dire, nel libro di Paola, di Vincenzo e di Ines. Perché? Perché la boccata di ossigeno mi è stata data non solo dal valore di come dire, transnazionalità che ha il testo, perché mette in dialogo studiose di diversi paesi e quindi di diverse culture con saggi che riguardano anche, che trattano anche argomenti differenti tra di loro, però è come dire è un dialogo che in qualche modo dà vita a un'opera che è unità nel suo insieme, quindi non dà la sensazione di affrontare degli argomenti che sono a sé stanti. Si parla delle lesbiche, come vi diceva prima Paola, spagnole perseguitate durante il regime franchista, che poi inevitabilmente sono finite anche nei campi di sterminio nazisti, quindi passando da un nemico ad un altro, ma si parla anche delle donne francesi, delle prigioniere lesbiche francesi, delle prigioniere politiche, intrecciando tra loro come dire, intrecciando queste storie in modo tale che non si abbia la sensazione di leggere qualcosa che appartiene alla Francia, che appartiene alla Spagna, che appartiene all'Italia e come dire, no? E crea delle geografie, dei luoghi, dell'oppressione, senza però poi dare un'immagine d'insieme di quella che poi è stata un'esperienza di tante donne, a prescindere dai motivi dell'internamento, a prescindere dalla specificità della detenzione di ognuna di loro. Per cui il libro, come vi dicevo, dà questa boccata di ossigeno, perché si ha la sensazione di, almeno ho provato questa sensazione, di leggere finalmente qualcosa di cui io non avevo menzione, non avevo memoria, di cui non sapevo, soprattutto moltissime notizie riguardanti il campo di Ravensbrück e quindi la particolarità di una detenzione per come è stata descritta dalla storica francese Bonnet o dalla storica spagnola, io non l'avevo mai conosciuta, quindi sono state per me veramente delle notizie incredibili che mi hanno restituito un pezzo di una storia che chiaramente mi ha legata a Ravensbrück, ma dal punto di vista delle italiane, quindi dell'esperienza italiana. È importante questo libro, per me è importante perché chiaramente dà la possibilità alle donne lesbiche di nominare un'esperienza e questa è una forma di risarcimento, se vogliamo, di cui noi testimoni di seconda e terza generazione abbiamo il dovere di assumere, cioè una responsabilità. La responsabilità di prendere appunto il testimone, cioè di far sì che quelle donne che non hanno più la possibilità di raccontarsi e di raccontare l'esperienza perché sono venute a mancare, perché non ci sono più, perché sono scomparse o perché semplicemente hanno deciso di non raccontare la loro esperienza nei campi, noi abbiamo questa responsabilità di rendere riconoscibile e quindi di tracciare una storia che fino ad oggi è rimasta nel silenzio più totale. Un riconoscimento che dobbiamo alle vittime delle donne dei nazifascisti, soprattutto perché il riconoscimento non è mai arrivato, un riconoscimento istituzionale, politico, civile non c'è mai stato. Come vi dicevo prima, i pregiudizi a cui ho avuto, mi sono trovata di fronte quando ho interrogato alcune donne della loro esperienza di detenzione, erano appunto che le donne tornavano a casa e non venivano credute, quindi non si chiedeva loro: ma come hai fatto a salvarti, come hai fatto a tornare a casa, a che cosa sei dovuta scendere, a quali compromessi sei dovuta scendere. Quindi già, come dire, il pregiudizio che rende la donna colpevole di essersi salvata. E interrompiamo per qualche minuto la nostra scaletta degli interventi previsti soltanto per ricordarvi che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda a partire dalle ore 17 tutti i martedì su Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta, oppure sul sito della radio, che ricordiamo è www.ondarossa.info.

sono ritagliata una piccola nicchia nella lettura di questo testo che è veramente ricchissimo, sia di informazioni sia di stimoli, e questa è una cosa preziosissima. E secondo me questo appunto mattoncino, come diceva Antonella, che si aggiunge, come diceva anche Lucilla, costruisce con le esperienze che abbiamo fatto come gruppo, con Antonella, come dire, costruisce una rete, un filo, no, di riflessione che ci permette, ci comincia a dare la possibilità di costruire una storia cancellata, e questo penso che sia una ricchezza grandissima. Quando il 24-25 aprile del 2009, no, se ricordo bene, abbiamo ospitato quella mostra fotografica veramente dura, ma insomma, come dire, la sofferenza delle donne, la durezza delle donne, e credo che la prima cosa forse nella formazione di un'identità per le donne è fare i conti con la propria e con quella che si riceve pesantissima dalla storia che ha alle nostre spalle. Dicevo, quando abbiamo presentato quella mostra, io ho iniziato con una metafora che non è mia, che mi piace fare perché introduce un po' quello che è il discorso che vorrei fare breve su questo testo. Una nostra carissima amica con cui abbiamo fatto altre iniziative, che è Pina Nuzzo, una volta ha fatto qui al CLR un corso sul come guardare la pittura con uno sguardo di genere. Vorrei semplificare un po' adesso, non è importante tanto il tema, quanto il fatto che nella prima lezione ci ha fatto un esempio molto significativo. Citando uno storico dell'arte, ricordava come questi dicesse che la relazione che ha il pittore con la sua pittura e con tutti i pittori che l'hanno preceduta è un po' come la culla di rete. La culla di rete è quel gioco che si fa, non so se ve lo ricordate, intrecciando un laccio, si passa da una mano all'altra, la mano successiva prende questo filo e gli compone un'altra immagine, gli fa comporre un'altra immagine, che però è fatto del laccio che è ricevuto dagli altri. E Pinaluzzo ci diceva, ecco, forse una delle tante difficoltà e una delle tante conseguenze della cancellazione è che è difficile inserirsi, ricevere una tradizione, inserirsi nella tradizione e con questo costruire il proprio punto di vista all'interno di una tradizione. Questo dà forza, nel senso che rassicura anche l'atto innovativo, permette di andare avanti, permette anche di cambiare. Ecco, io questo lo condivido moltissimo, la cancellazione è una cancellazione che parte da una radice profonda dell'identità, che è quella di dover ricostruire il tanto cancellato e nascosto da cui si proviene, qualcosa che è inscritto dentro di noi ma che deve essere decodificato fortemente e portato alla luce attraverso che cosa? Quale metodo? Un metodo che non è stato mai narrato, che non è stato mai raccontato, che non ci è mai stato detto. Solo i movimenti delle donne hanno cominciato a parlare di sapienza, sapienza del sé, sapienza del corpo, sapienza che si apprende insieme alle altre. Ecco, io certo non è più il luogo per ripetere queste cose, però quello che voglio dire è che la narrazione che le storiche che si occupano come dire, di ricostruire la storia delle donne e la storia delle donne lesbiche ha come dire, la forza di permettere appunto che noi possiamo diventare testimoni, possiamo raccogliere quello che è stato, che è parte della nostra identità. Lo diceva anche Antonella prima. Io però mi pongo una domanda successiva, cioè come questa storia che cominciamo a ricostruire in Italia pochissimo, in realtà poco va, non diciamo pochissimo, un po' meno che in Europa anche non tantissimo, ma comunque senza dubbio più che in Italia, questo lo posso dire con tranquillità, insomma, un po' la bibliografia, almeno il mio campo la guardo, ecco, diciamo, questa storia che si comincia a ricostruire, certo, diventa parte, deve diventare parte del nostro lavoro, della nostra testimonianza, noi dobbiamo prestare voce a questa storia, ma un punto fondamentale è come questa storia possa diventare patrimonio comune, cioè come si incide sull'immaginario, come si incide sul simbolico, come si arriva a come dire, porre attraverso la trasmissione e la formazione in comune il sapere. Ecco, questo è un elemento fondamentale. Allora, testi come questo permettono naturalmente di costruire all'interno dei singoli saggi, gli elementi informativi, storici che ci costruiscono i nomi, che ci costruiscono l'esistenza, che ci costruiscono l'identità, ma costruiscono anche un dialogo fra di loro e con altro, gli altri dialoghi che sono all'esterno. Il saggio di Mahoma in particolare inizia proprio con un paragrafo intitolato, non voglio sbagliare, La nuova storiografia lesbica in Italia, quindi parte innanzitutto dalla dichiarazione di esistenza di un metodo specifico che guarda, che costruisce la storia delle donne e delle lesbiche in particolare. E quindi la relazione, si comincia a costruire una relazione con la tradizione, sperando che questo proietti verso un dialogo costante e continuo che sia visibile finalmente, sia sottratto alla cancellazione. Quindi è come se le saggiste parlassero con le saggiste con le donne di cui hanno messo in luce il percorso di identità drammatico, tremendo che hanno passato, facendo un dialogo con le altre saggiste che sono presenti nel testo e con le saggiste che hanno scritto poi, e quindi si comincia a costruire finalmente questa rete dentro la quale la voce dell'una come delle altre, proprio perché ci si richiama nella propria differenza, ci si proietta nella propria differenza, si riesce in qualche modo a costituire storia comune. Ecco, questo è l'elemento fondamentale del rapporto scrittura-identità, e in questo mi sembra che il libro costituisca più che un mattone, un pezzo imprescindibile, diciamo, di costruzione proprio del vissuto. Una cosa che diciamo è importante in questo lavoro, sulla quale io ho molto riflettuto e anche in passato per altre questioni, è il fatto che, come dire, la cancellazione che riguarda naturalmente la storia delle donne complessivamente, e in particolare la storia delle lesbiche, è forte anche all'interno dell'omosessualità maschile o femminile che sia. Raquel Osborne dice una cosa, secondo me, con una linearità splendida, che è drammatica nella sua semplicità. Dato che non si contemplava una sessualità femminile autonoma rispetto a quella degli uomini, la sessualità solo tra donne non poteva esistere. Cioè, è veramente un gioco di specchi feroce, che spiega come, anche nel famigerato del 175, le donne entrassero poco, perché non era concepibile, cioè l'immaginario non concepiva, non solo non nominava, ma non poteva neanche concepire. Ed è quella grande difficoltà che emerge in tutti i saggi ad avere testimonianze in positivo, ovvero sia ad avere testimonianze di donne direttamente che raccontino la loro esperienza lesbica. Abbiamo gli interrogatori, abbiamo le stesse donne deportate, rinchiuse, che raccontano la loro esperienza, ma raramente raccontano la propria esperienza omosessuale, la storia con la propria compagna e così via. Non solo quindi la storia in negativo dei processi, delle relazioni, deve essere, come si dice, scarnificata di tutto quello che gli si mette sopra per poter arrivare al nodo, ma è talmente introiettata questa forma di non visibilità che appunto neanche loro raccontano direttamente la propria esperienza lesbica dentro o fuori del campo, direi, a questo punto. Diciamo, da un certo punto di vista, per quanto atroce possa essere questa affermazione, è proprio il fatto che hanno vissuto un momento di estrema tragicità, quale quello della reclusione dei lager, il nazismo, il nazionalsocialismo, il franchismo, che abbiamo potuto avere tracce della loro storia, quando non sono naturalmente tracce narrative propriamente, vere, prose, cioè letterarie, perché una piccola letteratura lesbica forse è esistita da Saffo, va, diciamo, da un certo tempo, anche se anche lì poi si potrebbero aprire altri discorsi. Allora, come dire, il racconto, la narrazione che emerge fuori, che esce fuori da questo testo, è un racconto che costantemente ci richiama a come, ai metodi, come si fa a ricostruire questa storia, attraverso l'oralità oppure no, attraverso i documenti, come devono essere decostruiti, come si può arrivare, no, al nodo centrale del discorso, quello che ci sta fuori, cioè ricostruire la storia. Con quale metodo, con quale relazione, che cosa si instaura tra studiose e, diciamo, donne di cui si raccolgono, si costruiscono, si narrano meglio le identità, ma esiste veramente un modo specifico di vedere, necessario un modo specifico, e poi questo modo come può essere trasmesso? che forse è la cosa più complicata, cioè come può essere, può diventare un elemento non degli studiosi e delle studiose, ma come può diventare un modo di guardare al nostro stare al mondo e quindi un modo che ci permette di essere in relazione, in dialogo con gli altri, di costruire una storia, un'identità che sia rispettosa dell'identità delle altre. La sensazione che io ho avuto, no, nel leggere questi saggi è che, così come forse un po' è anche la ragione di una difficoltà a costruirsi come identità e raccontarsi, eccetera, è il fatto che forse non c'è un immaginario collettivo dell'identità lesbica, no? In un certo senso, in qualche modo, ma anche un'identità di riferimento. E qui forse meno male, perché così ci sono tante differenze che si possono raccontare, quindi meno male. Però naturalmente questo già era una difficoltà nel nominarsi e nel costruirsi, anche se può per differenziarsi rispetto a questo, no? Allora, quello che mi veniva in mente, che cosa costituisce, di cosa hanno di comune queste resistenze lesbiche? Che cosa si può dire che le accomuni rispetto a un rapporto con la storia, con l'identità, con la cancellazione, eccetera? Se pensi che ci sia qualcosa di comune. Beh, è una domanda complessa. Beh, io direi che comunque si parla di dannatio memoria, e in qualche modo quello che è comune non è soltanto la dannatio memoria, ma anche la dannatio vitae che è stata vissuta da queste resistenti. Secondo me in comune c'è il fatto che sono riuscite ad essere lesbiche. Uh-huh. E questo ha comunque portato, c'è stato un percorso che queste donne hanno fatto. Sia le resistenti in modo esplicito, sia quelle che sono semplicemente esistite, che comunque sono riuscite a vivere i propri amori o andando in esilio o fingendo di sposare dei gay o scegliendo altre forme, anche l'esilio interno era possibile in Germania, quindi andare a vivere in provincia dove non ti conosceva nessuno. Questi sono percorsi che le accomunano, secondo me, ed è la resistenza stessa alla fine. E il lavoro possibile, ecco, per esempio manca qualche cosa sulle partigiane, che questo è un grande rimpianto che abbiamo, d'altro canto parlando anche con ricercatrici che hanno fatto interviste a partigiane, perché da poco, solo tanto da poco si è rotto il tabù della partigiana staffetta. Soltanto da poco è stato riconosciuto un ruolo alla lesbica, alla donna combattente nelle unità partigiane, soltanto da poco molte hanno ammesso di aver combattuto, di aver ucciso, di aver usato il mitra. Quindi c'è la tendenza adesso da parte di storiche, donne storiche, a fare anche domande su un'effettiva partecipazione combattente. Però parlando con una ragazza che anche lei ha fatto varie interviste, si chiama Antonella Fontanesi di Istoreco, o Istoreco, non so come si pronunci, durante una presentazione appunto del libro, lei mi ha detto non ho mai pensato a fare domande invece su quella che era la loro vita. Se conoscessero lesbiche, se avessero vissuto storie lesbiche, quindi la domanda sulla sessualità in qualche modo è comunque ancora adesso un tabù. E quindi forse l'esistenza stessa della sessualità to cure delle donne è ancora problematica. Quindi quando diciamo che nel paragrafo 175 non c'era la penalizzazione, in qualche modo però il discorso di Rachel Osborn secondo me si applica anche all'assenza di una problematizzazione che viene protratta ancora oggi. Ecco, posso dire questo. Grazie. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.